Il punto di Stefano Folli. Nel definire il piano di riforme del governo italiano, la missione del Fondo Monetario ha usato lo stesso aggettivo scelto tempo fa da Angela Merkel per commentare l'avvento di Renzi. L'aggettivo è ambizioso ed è quasi un termine in codice per segnalare approvazione, ma anche attesa per i passi successivi. È come se il Fondo Monetario e per coincidenza anche la cancelliera tedesca dicessero: andate avanti, cari italiani, siete sulla strada giusta, ma attenti a non dormire sugli allori perché i risultati concreti sono ancora tutti di là da venire. E infatti il quadro generale descritto resta pesante, dalla disoccupazione senza freni alla mancanza di sviluppo economico, dagli squilibri fiscali all'eccesso di spesa pubblica non produttiva, cioè non destinata agli investimenti. Per Renzi questa diagnosi equivale a un incoraggiamento, certo, e quindi il Premier può essere abbastanza contento, ma è anche un monito a non giocare con le parole. La prossima ricognizione del fondo sarebbe molto più severa se le ambizioni si trasformassero in delusioni.